in primo piano. Grazie Alessandro e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Sono Giampiero Gramaglia e vi racconto oggi una stampa che ha praticamente in modo unanime due grandi titoli su tutte le prime pagine. Uno riguarda le misure per fare fronte alla crisi dell'auto e l'altro riguarda la polemica innescata dalle dichiarazioni fatte ieri dal leader dell'Italia dei Valori Di Pietro sul Presidente della Repubblica. Dunque partiamo col primo dei due temi, partiamo leggendo il titolo del Sole 24 Ore: per il settore auto la dote di aiuti verso i 500 milioni, governo e parti sociali sul piano di sostegno all'intera filiera, ecobonus a 1.400 euro e tassa sulle vetture di lusso, le imprese 250.000 esuberi nelle infrastrutture. È un titolo che più o meno in modo analogo ritrovate anche su tutti gli altri quotidiani. Una brevissima rassegna: auto, sì del governo agli aiuti, questo è il Corriere della Sera; tavolo a Palazzo Chigi per il settore, si parla di interventi per oltre 300 milioni. Scaiola, pacchetto entro 10 giorni. Montezemolo, fare presto. La Repubblica, auto 300.000 posti a rischio, vertice con le parti sociali, ancora 10 giorni per decidere. Allarme di Confindustria, nessun accordo sugli aiuti alla Fiat. E La Stampa: pacchetto auto in 10 giorni, le banche in soccorso della Fiat, corteo spontaneo degli operai di Mirafiori, allarme di Confindustria, in Italia 300.000 posti a rischio. Come vedete, una certa unanimità di titoli e di elementi scelti per spiegare l'evoluzione del problema. Si attendevano, forse con eccessivo ottimismo, già delle decisioni dalla riunione di ieri. Le decisioni ci saranno nei prossimi 10 giorni. A corredo dell'impatto della crisi sul settore auto e sul settore delle infrastrutture in Italia, alcuni giornali, per esempio anche La Repubblica nell'occhiello in prima pagina, ma ho davanti agli occhi in questo momento Liberazione a tutta pagina, mettono in rilievo i dati dell'ONU sulla disoccupazione mondiale. Boom disoccupazione, ONU 50 milioni di disoccupati nel 2009 e recessione mondiale, 200 milioni in più ridotti in povertà. Se ne parla in questi giorni a Davos, dove c'è il tradizionale forum economico, e se ne parla anche a Belém in Brasile, Davos e in Svizzera, dove si svolge il forum sociale mondiale. Dunque il Sole 24 Ore ci dà anche un commento in prima pagina con un titolo accattivante: addio chimerica, nuove basi per la ripresa. E Gian Giacomo Nardozzi scrive: le nuove previsioni del Fondo Monetario Internazionale riducono la crescita dell'economia mondiale per l'anno in corso a meno di un quarto di quanto stimato nel novembre scorso, cioè quando la crisi si era appena accennata. E secondo Nardozzi sono stati quelli che abbiamo vissuto gli anni di chimerica, la crescita drogata da troppi consumi americani e troppe esportazioni cinesi, lo squilibrio fondamentale su cui correva l'economia mondiale, consentendo a quella cinese di crescere a ritmi forsennati e a quella americana di mostrare per sempre la sua forza. Ora il volo di chimerica è terminato con uno schianto, perché ha contribuito a gonfiare la finanza fino a farla scoppiare. Non va resuscitata chimerica, bisogna cambiare metafora, cioè regime. A gettare le basi del cambiamento sta già pensando la crisi in cui ci dibattiamo, crisi che induce tutti i governi e tutte le organizzazioni internazionali a rivedere i criteri delle politiche economiche, e crisi che induce anche tutti i cittadini a rivedere i criteri delle loro scelte in termini di consumo, di investimento e di risparmio. Dunque, questo, quello della crisi dell'auto in Italia sullo sfondo della crisi mondiale, uno dei due temi costanti della stampa italiana di oggi. L'altro è quello che il Corriere della Sera così sintetizza nel suo titolo in prima pagina: attacco al Colle, bufera su Di Pietro. Per il leader dell'Italia dei Valori il silenzio è mafioso. Maggioranza e opposizione insorgono in difesa del Quirinale. L'ex PM in piazza, l'ex PM e Di Pietro in piazza, Napolitano tace sulla giustizia, non è arbitro. E il Corriere della Sera, in un neretto in prima pagina, ricorda un passaggio delle battute di Di Pietro sotto accusa. A lei, presidente Napolitano, che dovrebbe essere arbitro, possiamo dire che a volte il suo giudizio ci appare poco da arbitro e poco da terzo. Il silenzio uccide, il silenzio è un comportamento mafioso. Su queste parole e su uno striscione che è stato esposto ieri durante una manifestazione dell'Italia dei Valori a Roma, è bufera politica. In difesa del Colle insorgono maggioranza e opposizione. Il Quirinale afferma espressioni pretestuose e offensive. Anche in questo caso le prime pagine dei principali quotidiani hanno titoli sostanzialmente simili, spesso accompagnati i titoli da commenti e da interviste. Così La Repubblica di Pietro attacca Napolitano, il Quirinale basta offese, e poi abbiamo un'analisi di Massimo Giannini. La Stampa di Pietro e Quirinale ai ferri corti, l'ex PM in piazza con Grillo attacca Napolitano, troppi silenzi, il silenzio è mafioso, La Replica, parole offensive e pretestuose. E anche in questo caso abbiamo numerosi commenti e interviste, analoghi titoli sul Messaggero e sugli altri quotidiani. C'è sul Corriere della Sera, e mi sembra interessante proporvene un estratto, un commento di Piero Ostellino in prima pagina che si intitola Una brutta deriva. Scrive Ostellino: alla manifestazione di ieri promossa dall'Italia dei Valori c'era uno striscione che diceva Napolitano dorme, l'Italia insorge. Spiega però Ostellino, sostenendo che le accuse mosse da Di Pietro al Presidente della Repubblica, o i rilievi mossi da Di Pietro al Presidente della Repubblica, non rispettano quello che è, o non tengono conto di quello che è il ruolo costituzionale del Presidente, spiega Ostellino, il Presidente della Repubblica non è un arbitro che sbaglia un fuorigioco, ma è l'autorità che può rinviare alle Camere le leggi del Parlamento per vizio di costituzionalità. E ancora Ostellino, la capacità di iniziativa che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica riguarda dunque la forma giuridica e non il contenuto politico delle leggi. Conclude Ostellino, Giorgio Napolitano sta esercitando la sua funzione non solo in modo esemplare, con intelligenza e moderazione, che sono poi le sue qualità umane oltre che politiche, ma nel pieno rispetto della Costituzione. Quella che si è verificata ieri con le frasi di Di Pietro, lo striscione in piazza, è una brutta deriva. Peraltro non estranea, sostiene, concludendo Ostellino, alla cultura dell'ex PM, che qualcuno dovrebbe spiegargli in punto di Costituzione. Questo tono di Ostellino, di richiamo anche a Di Pietro, a quelle che sono i fondamenti della Costituzione per quanto riguarda il ruolo del Presidente, si ritrova in molti altri commenti. Ma su questa vicenda, sulla vicenda della polemica che è nata intorno alle dichiarazioni di Di Pietro, i due giornali che più spazio dedicano e che anche assumono una posizione più forte sono, e non c'era da dubitarne, Libero e Il Giornale, dico non c'era da dubitarne perché Libero e Il Giornale da giorni dedicano alle posizioni e alle scelte di Di Pietro una particolare attenzione. Così Libero a tutta pagina, con una grande immagine caricatura del Presidente della Repubblica che appare come un mafioso omertoso, lupara, coppola e scaccia pensieri alle labbra, scrive a tutta pagina «La mafia di Di Pietro» e sotto un occhiello imbarazzo del Quirinale, questo è il sommario, il leader dell'Italia dei Valori accusa Napolitano di atteggiamenti degni di Cosa Nostra perché tace su giustizia e intercettazioni, la riforma che si sta preparando in questi giorni da parte del governo e in Parlamento. Ma in quanto a silenzi sospetti, anche l'ex PM non scherza e il fondo qui è del direttore Vittorio Feltri. Il Giornale, anche Il Giornale ha il titolo a tutta pagina, ma questa volta le immagini non sono dedicate a una caricatura di Napolitano, bensì sono dedicate a Di Pietro con un titolo Il tramonto di Tonino il parolaio e a Grillo cala il sipario su Beppe il comico. Chiaro dunque l'orientamento del Giornale che scrive questi hanno perso la testa, questi sono Di Pietro e Grillo. Di Pietro e la sua banda scendono in piazza, sono pochi, meno di 1000, ma vanno all'assalto delle istituzioni. Grillo insulta il Premier, l'ex PM dà del mafioso Napolitano che si infuria e gli alleati del PD, gli alleati dell'Italia dei Valori, il Partito Democratico e gli alleati del PD arrossiscono. Sotto il titolo commento il flop del girotondo, il demagogo in trappola, c'è poi il commento, l'analisi e il commento del direttore Mario Giordano. Dunque un grandissimo spazio su tutti i giornali, anche sugli altri che non abbiamo qui citato a questo argomento. Non è il solo tema della politica che si trova sui giornali di oggi, l'altro tema politico in maggiore evidenza è quello della riforma della legge elettorale o della correzione della legge elettorale in vista delle elezioni europee che si svolgeranno a giugno, con l'introduzione di una soglia del 4% su cui ci sarebbe un accordo tra il Partito della Libertà e il PD e che costituirebbe uno sbarramento forse insormontabile per molte piccole formazioni che naturalmente stanno protestando. Ma lo spazio che i giornali dedicano oggi alla riforma, alla correzione della legge elettorale. Il titolo lo trovate praticamente con diversa evidenza, a volte inglobato nei pezzi politici sulle polemiche tra Di Pietro e il Quirinale, a volte a sé stante, su tutti i giornali. Ho scelto per trattarlo un giornale che ha chiaramente un atteggiamento critico nei confronti di questa riforma perché è espressione di una forza politica che rischia di farne le spese. Scrive il Manifesto, grande titolo in prima pagina, grande foto di Berlusconi, del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e del leader del Partito Democratico Walter Veltroni a colloquio, appare disteso, una foto ritratta si direbbe in Parlamento, comunque un'immagine di dialogo, di incontro quasi casuale fra i due. Il titolo è Mercato Europeo, mercato perché l'intesa tra il PD e il PDL che porterebbe all'esclusione dal Parlamento europeo delle piccole formazioni che non superano il 4%, la soglia del 4%, che non supereranno la soglia del 4% nelle elezioni di giugno, sarebbe un'intesa d'affari fra i due maggiori partiti, fra i due leader dei maggiori partiti. Scrive Gabriele Polo nel commento, saltare un giro è il titolo. Da piccoli ci insegnavano che le elezioni erano un momento cruciale della democrazia e che quindi il sistema elettorale doveva garantire la massima rappresentanza, essere lo specchio istituzionale dell'opinione pubblica. Forse non era completamente vero, oggi non lo è per nulla. E sostiene Polo, ieri è stato fatto un passo ulteriore verso lo svuotamento della rappresentanza elettorale per ridurla a una simulazione della democrazia basata sullo scambio di convenienze reciproche. Lo scambio di convenienze reciproche sarebbe quello appunto tra Berlusconi e Veltroni, tra il PDL e il PD. Un tema elettorale, un tema politico, un tema elettorale, ma non è quello della riforma per le europee. Si ritrova anche in prima pagina sull'Unità, è l'unico giornale che lo ha così in rilievo. L'immagine, un disegno, è quella della Sardegna trasformata in una sorta di gioco della settimana e il titolo è «Elezioni in Sardegna, partita truccata, allarme del PD, Veltroni dal premier abuso della TV, Soru è l'ex governatore della Sardegna e il candidato del PD a ridiventare governatore, par condicio violata, esposto all'autority. I bluff della destra, Cappellacci è il candidato del PDL a governatore della Sardegna, prometti fondi già stanziati dalla giunta Soro, i media locali tacciono. Dunque un focus dell'Unità sulle elezioni in Sardegna. Veniamo ora a temi diversi, abbiamo detto quelli che dominano le prime pagine, l'auto, la crisi, le tensioni fra Di Pietro e il Quirinale, le scelte della politica. L'Avvenire mantiene in prima pagina con grande rilievo il tema dei contrasti tra Chiesa Cattolica ed ebrei. Ieri c'è stato un intervento del Papa, il Papa ai fratelli ebrei la mia piena solidarietà. Benedetto XVI ricorda la Shoah, frutto efferato della potenza del male, monito contro il negazionismo. Nuovo invito ai lefebriani, riconoscono il Vaticano II. E il rabbinato di Israele raccoglie l'apertura del Papa dopo giorni di screzi, di incomprensioni, parole importanti per noi e il mondo. L'Avvenire dedica il titolo più importante, il titolo d'apertura del giornale, a questo argomento che ritrovate con minore rilievo su altre prime pagine. Vediamo poi titoli che invece magari trovano spazio in prima soltanto su alcuni giornali. Il Quotidiano Nazionale, il giorno La Nazione, il resto del Carlino hanno in prima Falsopoli, sgominata maxi organizzazione specializzata in euro contraffatti. Dalla Calabria all'estero, banconote perfette e spendibili, retata in mezza Italia, 109 ordinanze di custodia cautelare, 170 indagati. Dunque un colpo a questa organizzazione che produceva euro falsi. C'è anche l'immagine sul giornale degli euro falsi, magari se qualcuno di voi ha in tasca una banconota da 50 euro avrà interesse questa mattina a confrontarla con quella dei falsari. Il giornale di Sicilia. Il giornale di Sicilia apre con un fatto locale che non trova spazio sulle altre prime pagine, ma che ha suoi elementi di tristezza e di monito. Frana a Caltanissetta, due morti nel fango. Sono due morti causati sì dal maltempo, ma sono due vittime ancora del lavoro. Certo, questo è stato, scrive il giornale di Sicilia, il gennaio più piovoso in Sicilia dal 1921, cioè da quando si raccolgono i dati, però i lavori che erano in corso a Caltanissetta e in cui erano impegnati questi due operai sono stati turbati da questo smottamento. Dei due operai morti, uno aveva 19 anni, l'altro 37 e lascia la moglie e i due figli. Lutto cittadino a Caltanissetta, l'ennesima tragedia del lavoro per l'Italia. E poi il taglio basso del Messaggero, del Mattino di Napoli, da un titolo che è stato fatto una scelta anche di divertente, i 100 anni del topo da laboratorio. Nel 1909 l'utilizzo delle cavie geneticamente simili per gli esperimenti, e Santa Di Salvo ricorda con qualche ironia: vista dalla parte di lui, cioè del topo da laboratorio, c'è poco da festeggiare. Eppure qualcuno ha voluto ricordare l'anniversario come si fa per gli avvenimenti significativi che toccano il secolo. Dunque, il topo da laboratorio festeggiato nel suo 100° compleanno dal Mattino e anche da altri quotidiani. Beh, chiudiamo, ormai forse l'avete capito, lasciamo in chiusura lo sport. Questo è il momento che sinceramente io avrei sperato non dovervi raccontare, io tifoso juventino, ma onestà vuole che vi legga anche il titolo della Gazzetta dello Sport. Fa male, l'Inter se la fila. I risultati della giornata di campionato, la seconda di ritorno infrasettimanale ieri: l'Inter passa a Catania, la Juve perde ad Udine e il campionato sembra andarsene ai nerazzurri. Con questo me ne vado anch'io, l'appuntamento è a domani.